si sta creando un grandissimo movimento, i bambini fuori dai ristoranti. C'è anche la partecipazione della compagna di Parenzo, che ha scritto un lunghissimo post di cui evidentemente non conoscevi il contenuto, caro Parenzo, no. Facebook, perché evidentemente c'è qualche problema tra di voi, ma io lo capisco, per carità, quando uno aspetta un figlio c'è qualche problema, c'è sempre qualche problema. Devi buttar non solo tutt'altro. Comunicazione alto, ma comunicazione non è che leggo tutti i giorni i post ha che scritto fa, una che cosa lunghissima compagna. E devo dire da applausi, dice io sarò una mamma impopolare, chiamala, ma quel ristoratore grande battaglia, no, famiglia. Ma aspetta, quel ristoratore ha pienamente ragione e io credo di avere il sostegno, credo. Questo chi lo dice? È la tua fidanzata, è la tua compagna. Invece credo di avere il sostegno, sì. Credo, non lo so, di avere il sostegno su questa cosa di Vittorio Feltri. Vittorio, buonasera, buonasera, hai indovinato. Oh, meno male. Cioè, dire, quel ristoratore di Roma che a mio parere cui va fatto una specie di semimonumento, sì, è una brava persona. Una bravissima persona, sicuramente, probabilmente anche amante dei bambini. Non è detto che sia un odiatore certo, di bambini. Significa niente, i bambini fuori dai ristoranti e fuori dai coglioni è una cosa, diciamo, civile, non è questione di non amare i nostri eredi. Sì, certo. Vogliamo certo. bene, eccetera, certo, però che, insomma, cioè, almeno la sera al ristorante si lasci in pace. Sì, cioè, tu ma stai dicendo... Io dico, si facciano delle sale, come ci sono le sale per i fumatori. Ma, scusa, ma se no? questo la sala non ce l'ha, se questo lo spazio non ce l'ha, che deve fare? Ma ci sono già i Kinderheim, non c'è bisogno. Ci sono le badanti, ci sono le babysitter, c'è esatto, tutto, sì. dai. Bambini, e poi ci sono tanti ristoranti che li accettano, cioè c'è qualcuno. Sì, vabbè, ma ognuno fa quello che vuole, però trovo lodevole l'iniziativa di questo ristoratore romano che sì. desidera che gli infanti, quelli sotto i 5 anni, stiano alla larga al suo ristorante, altrimenti avrebbe questo signore un disturbo in più per sé e anche per i clienti, quindi ecco. non ci trovo niente di strano, anzi mi sembra di dover applaudire anche. Assolutamente, anzi credo che si può anche dire che ci si va in questo, è un po' lontano, però un po' lontanuccio, almeno per te che non ami la periferia, tu non ami la periferia, come speriamo si che ci sia un contagio, cioè che esatto sì questa cosa. Ma scusa, tu quando vai nei ristoranti, io ti guarda, per protesta andrò con tutti i miei figli tutti lì, proprio in quel ristorante là, anche se non avevo nessuna intenzione di andarci, ma andrò per protesta e porterò anche i bambini degli altri quello amici, ti manda via proprio. Quello ti manda via. Facciamo un'occupazione militare del ristorante. Vabbè, di ma bambini. Tu sei padronissimo, diciamo così, di suicidarti anche attraverso i bambini, puoi fare quello che vuoi, però l'importante è che si riconosca al proprietario di un ristorante di selezionare esatto. la propria clientela prescindendo dall'infanzia, che è rumorosa, fastidiosa, sì. capricciosa, insomma, diciamo la verità, tu i bambini, caro Vittorio, sì. meno ce li hai in mezzo alle balle meglio è, cioè. Effettivamente così. È così, io ho avuto 4 figli e me li sono sopportati, non mi davano neanche fastidio, devo dire, perché quando a una certa età che hai figli lo sai e ti comporti automaticamente, diciamo che hai lavorato tanto anche perché per non stare insieme ai 4 figli, diciamo. Sì, effettivamente. Cioè, più stavi fuori, meglio era. Cioè. Non c'è il minimo dubbio. Però, insomma, sono comunque riuscito a sopportarli, sì. a farli diventare grandi e spero anche di averli fatti stare abbastanza bene. Sì. Adesso mi secca di morire perché non vorrei lasciargli né dei soldi né degli immobili. Come? Invece mi toccherà perché non riesco a spendere tutto quello che guadagno, capito? Ma sì, ma perché ha ragione Vittorio, io devo dire la verità, non bisogna lasciare nulla ai figli, io ho rimproverato una cosa che ho già detto, non bisogna lasciare nulla ai figli, ha detto nulla. Non bisogna spendere tutto quello che uno ha, tutto quello che uno... è però difficile, a un è certo difficile punto perché ci si sforza la mia età specialmente, sì. io ne ho quasi 73, sono tantini, sì. effettivamente mi rendo conto di non avere molto tempo a disposizione per sperperare, sì. però io ci provo, mi impegno e sto sperperando il più possibile. Anche perché io, non essendo come Parenzo, non ho questa propensione per il risparmio, non so se mi spiego. Parenzo, un po' diciamo che è un po' diverso da quello che è la vulgata, lo diciamo, dell'ebraismo, un po' lo stereotipo. Ecco, giusto, però lo stereotipo. Questo me lo rivaluta. Laico, devo dire che sono più ebreo io di Parenzo. Ecco, diciamo, bravo, sono sì, più ebreo io di Parenzo. No, io, tu sei taccagno, su questo, ma non avevo dubbi conoscendoti. Non l'ho mai visto tirare fuori il portafoglio. Ma questo, no, ad esempio, è un dato. Io non so che il portafoglio di Cruciani, no? non so di che colore sia. Esatto. Non mi ha mai offerto un caffè, non mai, dico no, una esatto. pranzo, una cena, niente. Io invece che ho l'esigenza di sperperare, certo. No, ma ti dico di più, caro direttore. Lui ha questa capacità che io invidio, che quando invita una figa fuori a cena, ad esempio, sì, no, sì. con la ma finalità figa, una ragazza, perché devi essere così volgare stasera? Va dai. Bene. O una ragazza, una ragazza signorina, dai. Con la evidente... Scusa, sì, prego, direttore. Tu hai parlato di figa. No, è una cosa che so. No, no, scusa, mi è sempre sì. piaciuta e forse sì. mi piace anche adesso, ma non mi ricordo perché. Come non ti ricordi? Se vai su Google trovi la cosa. Ma no, quello che ti voglio dire, direttore, è questo. È aggiungere questo. Lui ha questa, perché lei invita fuori a cena con indubbiamente la finalità, si annoia durante la cena perché non sa cosa dire, infatti la fa durare pochissimo. Con l'unica finalità poi di portarla nello scannatoio nella casa di Milano. Sì, sì. Ma in pizzeria l'avrà portata. Ma neanche sia a McDonald's, cioè in fast food, odio McDonald's. No, ma si fa offrire la cena poi. Cioè la cosa è grandiosa. È veramente bravo, ha una tecnica che io Io sono come Vittorio Sgarbi, cioè non ho il portafoglio e non pago quasi mai a cena, cioè non pago mai quasi mai a cena. No, togli pure il quasi che... Questo te lo confermiamo tutti, cioè, quindi tutti quelli che hanno avuto rapporti però, con te. La verità, no, torniamo ai bambini, però, che è l'argomento sì. così, perché adesso le mie tasche, sì. eccetera. I bambini sono meravigliosi, li porti al ristorante e alle volte fanno anche la Vittorio, pupù. C'è quello non sopporto, straordinario i bambini di cacca. Costano come gli adulti, ma questa una cosa è una tragedia. Lui non, tragedia. Vittorio non sopporta i bambini, e anche i nipoti, non li sopporta, diciamo la verità. No, io, ma no, assolutamente. Ma non li sopporta, sì, li accarezza. No, stasera sono a cena con mia figlia, col suo bambino, che hanno anni, ma io no, lo sopporto perché è un soldatino, si comporta come uno di 38 anni, non rompe i coglioni, e quindi è il nipotino mio preferito. Solo perché anche l'unico che porto a cena. Perché non rompe i coglioni, diciamo. Non rompe i coglioni. Ma questo è fondamentale. No, mi dicevi prima della figa, dell'argomento figa, che è interessante. Cioè, io sostengo da tempo che il futuro dell'umanità sia il poliamore. O comunque il futuro di una parte consistente dell'umanità, cioè dire, perché sono d'accordo con te, guarda, mi appiattisco sul tuo concetto. Cioè tu sei anche tu teoricamente, naturalmente, un adepto del poliamore? Certo, io mi innamoro circa 12 volte al giorno. No, veramente stai dicendo? Sì, sì. Pensavo all'anno. Io vedo una bella donna e mi innamoro su, poi mi passa anche in fretta, però ho questi innamoramenti, diciamo, queste piccole passioni, sì. Sono come te. Dici, relazionarsi con una sola nella vita è molto complicato. Dammi manforte su questo. No, è anche noioso, diciamo. No, quello è noiosissimo. Per esempio, Parenzo è uno fissato con la monogamia. No, con... fissato. Sì. Ma la pratica, ma senza... No, ma dai, sono Parenzo, scusa, lasciati dire. Non sai cosa ti perdi, ha ragione Cruciani. Mettiti anche tu nella scia di Cruciani e ti troverai molto bene. Senti, un'ultima cosa, ma io divento pazzo per l'espressione Family Day, cioè io vado al manicomio con le associazioni che fanno il Family Day. Ma che cosa significa? Che cosa significa Family Day? Cioè, guarda, questa cosa è veramente fastidiosa anche dal punto di vista. Quello è l'antifrocio day, quello è l'antifrocio day. E basta. Ma poi che te frega se uno è frocio, se uno non è frocio? Io non riesco a capire. Poi il Family Day, la famiglia, è la cosa peggiore che l'uomo abbia inventato. Ecco, questo è interessante. Sì, perché è la cosa peggiore? Perché tutti i guai avvengono in famiglia. Cioè, non so se ricordi la famosa canzoncina, volgare però, che rende l'idea, è... sarà capitato anche a voi di avere un casino in famiglia, padre che scopa la figlia, il nonno finocchio che incula il marmocchio. Ma ecco, questa orribile canzoncina però dice la verità, perché non mai sentita la pedofilia si svolge in famiglia, non è che spesso accade nelle famiglie, nelle famiglie succede di tutto, sono dei grovigli di vipere le famiglie, cioè le famiglie sono il centro di qualsiasi nefandezza, diciamo, bravo, hai detto, e questo è il titolo, dunque altro che Family Day, anti Family Day bisognerebbe fare, l'elogio dell'anarchia, l'elogio della solitudine, l'elogio della vita da diciamo quasi da... Ma scusa, adesso tu non so se sei stato sposato o no, ma mi sembra evidente che dormire con una moglie sia una cosa sconcia.

questo senso. Esistenza miserabile può darsi, quello ti posso anche dare ragione, l'esistenza miserabile. Devi considerare, Parenzo, che questo signore, dice che noi facciamo agli animali quello che i nazisti hanno fatto agli ebrei. Esattamente, ma che cazzo dice? Ma che cazzo dice? Che paragoni fa? Sciocco! Sei stupido come un coniglio, Tu guarda, tu stai solo a offendere perché non hai argomenti. Ma come si fa a paragonare la Shoah, i 6 milioni di ebrei alla ma che dice? Lei ha follie, non argomenti. Perché questo sarebbe un argomento? Se tu fossi nato maiale avresti sicuramente pensato in modo differente. Al massimo sarai nato volpe, al massimo anche tu, maiale sarà nato lei in un'altra vita. Com'è? Scusa, fammi capire bene. Antropocentrista e specista. Esattamente. Androcentrista. Perché? C'è Andro Mercù al centro. Androcentrista. No, mi spiace. Andro Mercù. Andro Mercù, centrista. Spettacolo sulla vita di chi non può difendersi, ma tanto no, ma io voglio che tu mi presenti qualche animale. Siete destinati a soccombere. Dobbiamo morire tutti. No, ma la rivoluzione è in atto. C'è una rivoluzione per i diritti di chi non ha voce. E che succede quando noi soccombiamo? Non ho capito. Ma lo vedete? Il futuro? Voi non pensate alle conseguenze del vostro scellerato stile di vita. Non ci pensate perché siete degli inetti. No, ma tu come vedi il futuro? Il futuro, se non si cambia registro, è destinato a scomparire. Cioè l'uomo è destinato a scomparire? Assolutamente sì. Ma forse è anche un bene, sì. No? Forse è un bene che sia destinato. Ma guarda, è certo, sotto certi aspetti può essere anche un bene, però non è che... Noi non siamo dei fascisti, al contrario di voi che vivete fregandovene di tutte le ma noi chi poi tu di chi fai parte di quale gruppo fai parte, non ho capito. Io non faccio parte della grande famiglia vegana, diciamo. Io non mi definisco vegano, mi definisco una persona che rispetta la vita degli altri. Sì, è molto differente. Però io voglio che tu mi presenti Leonardo da Vinci nel 1500. Sì, aridaglio questo Leonardo da Vinci. Ha detto la seguente frase: non mangio niente che abbia un cuore. Quindi questo dovrebbe già far capire. Sai che il cuore non è male quando lo mangi? Il cuore non è male. Ma anche il fegato. Non dire in faccia. E perché che fai? Mi picchi? Ma ti tratto come trattano gli animali. E cioè come mi tratti? Come tu mi tratti? Gli animali come degli oggetti e l'hai trattato come un oggetto. E che fai? Mi uccidi? No, ti tratto come un oggetto. E cioè? Tu dovresti patire quello che stanno facendo. No, ma è interessante questo, cioè gli animali dovresti patire quello che stanno adesso. Cioè tu ti auguri la mia sofferenza, Ma no, io ti faccio provare, ci mancherebbe, non è che te la auguro. Io ti vorrei far provare sulla tua pelle quello che stanno facendo. Appunto. Tu vorresti che io soffrissi come gli animali, che fossi tagliato, che ne so. Non ho capito, scusa. Cioè, tu vorresti che io fossi tagliato in pratica, che ne so, affettato, tagliato, macellato. Ma no, perché tu non fai parte. Tu sei nato Homo, come si dice? Homo sapiens. Dovresti essere un Homo sapiens. E invece non sono un Homo sapiens. In realtà non lo sei perché sei molto poco sapiens, perché stai facendo del male al mondo. Ma io può darsi che faccia male al mondo, ma non capisco, tu mi devi presentare un animale che sia offeso. Un animale? Ma che c'entra? Ma gli animali sono... Presentami un animale che dice sento offeso. Hanno diritto alla vita e alla libertà. Lo sai dove finisce la tua libera scelta, Crociani? Sì. Lo sai dove finisce la tua dove libera finisce? Scelta, spiegamelo, Crociani? Dove inizia il diritto alla vita e alla libertà di qualcun altro. Il diritto alla vita, come devi dire? Il diritto alla vita del cane. I cani della Corte Costituzionale. Aspetta. Che evidentemente non ti permette di elaborare simili pensieri. Tutto qui il discorso. No, ma certo, tu hai una dotazione intellettiva che effettivamente, evidentemente, è sicuramente inferiore. Tu vuoi che io faccia la fine? Vuoi che faccia la fine di un animale? Ti auguro di provare sulla tua pelle. Appunto, la sofferenza. Benissimo. La sofferenza. Ti auguro di morire. La sofferenza. Ma dei macellai, che pensi dei macellai tu? Ma i macellai, guarda, che cosa vuoi pensare dei macellai? Dimmelo. Si devono redimere. Sì, assolutamente. Redimere. Facciamo una preghiera per il macellaio, dai. Non è un lavoro. Non è un lavoro, no. Non è un crimine, è un assassinio. La sofferenza degli altri terrore altrui non è. Preghiamo insieme per i macellai. Poi anche quella cosa bianca, che quel camice che bianco. Preghiamo insieme per i macellai. Tu preghiamo prendi insieme. In giro esseri che non possono difendersi. Ma presentamene uno che prende in giro, amico mio. Preghiamo per i macellai. Ciao, Cruciale. Ciao, preghiamo per i macellai. Ciao, preghiamo, sì, preghiamo. Ciao, Cruciale. Ciao. Ciao. Tu sei Carlo? Io sono Carlo, e te chi sei? Io sono uno che tu dici che devo bruciare, io sono Zingaro. Il telefono chi ti ha dato a te? A chi ha rubato il telefono? Io non rubo. Come non rubi? Tu hai dato il numero sulla radio della Zanzara, Sì. Vediamo se hai coraggio di ripetere a me in faccia stesse cose che hai detto. Sì. Che sentiamo? Che ha detto Cici? Che ha detto che siete zingari del merda. A me mi sta bene quello che ha detto Cici, perché io mi sono presentato, tu ancora te devi presentare. Vedi che differenza che c'è fra me e te. Io sono Zingaro e tu mi hai offeso. Ho capito, ma come dici chi sei? Tu sei un nazista. Allora, non mi rompere i coglioni, che sei uno zingaro, che vuoi da me? Ma chi te ci ha portato? Io mi chiamo Damir. Damir. Va bene. Ecco Carlo. E allora, tu sei un nazista? Sì, sei un fascista. Voi che siete venuti in Italia per sfruttare il popolo italiano. Che cazzo stai dicendo tu? È tutto falso. Tutto falso. Se sei uno zingaro, devi lavorare. Se vieni in Italia, devi lavorare. Io lavoro. Io lavoro. Sei tu che sei razzista. Nazista. Fascista. Fate le case, fate le peggio stronzate e zozzate qui in Italia. Capito? Tanto c'è la giustizia, la legge che vi copre. Sei voi. Tu che devi capito? Andare in galera per queste cose sì, che hai sì, detto sì. Di razzismo, io fascista, nazista. Io posso pure andare, ma ci vado a testa alta perché sono in Italia. Sto a terreno mio. Voi io no, voglio voi no. Vedere se ci incontriamo per strada se dimmi, mi dici stesse cose. Dai. Io Roma, sono Roma, in Maliana, va Roma. Bene, vieni in Maliana. Sì, dai, dimmi dove stai. Dimmi tu dove ti stai, fai addosso, tu ti fai addosso prima di uscire di casa di Portone. Porco Giuda, dimmi dove stai, che io vengo lì, non ti preoccupare, vengo lì. Se te la fai addosso prima e scivoli sopra e ti fai male, ti devi vergognare di fare queste cose razziste. Zitto, tu devi stare zitto e non telefonare in radio. Tu non devi telefonare in radio perché sei fa schifo. Io non ho rubato niente. Tu mi offendi. Vergognati. Delinquenti.